relazioni sono cose strane, spesso son piene di malignità. Hanno la faccia da rivoluzione, l'abito di chi non cambierà. Le decisioni fanno festa a giorno, o si rinchiudono dentro uno studio. Hanno il profumo di liberazione, o di strada vecchia se di fronte a un bivio. Ed ora è tempo di una decisione, quindi prendimi o fammi cadere. Dammi ragioni che mi spingano a darmi da fare. Prenditi cura delle cose che hanno il mio nome, oppure falle a pezzi tanto per ricominciare, tanto per ricominciare. Le decisioni sono segni uniti di proiezioni di felicità, oppure sono dei frutti proibiti di cui una donna ne ha curiosità. Ed ora è tempo di una decisione, quindi prendimi o fammi cadere. Dammi ragioni che mi spingano a darmi da fare. Prenditi cura delle cose che hanno il mio nome, oppure falle a pezzi tanto per ricominciare, tanto per ricominciare. E tu lo sai, è tutto così stabile e labile, ma non vorrei pensassi che è impossibile o difficile. Sai che c'è, può darsi sia la buona occasione per te di prendere una decisione. Fammi cadere, dammi ragioni che mi spingano a darmi da fare. Prenditi cura delle cose che hanno il mio nome, oppure falle a pezzi tanto per ricominciare. E quindi adesso scegli, prendimi o fammi cadere. Dammi ragioni che mi spingano a darmi da fare. Prenditi cura delle cose che hanno il mio nome, oppure falle a pezzi tanto per ricominciare. E quindi adesso scegli e prendimi.